Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dallo smaltimento dei rifiuti al riciclo, dalla riduzione delle emissioni nocive alla digitalizzazione dei processi lavorativi, le possibilità a disposizione delle imprese che vogliono intraprendere la strada del rispetto dell'ambiente sono oggi sempre più numerose. Anche nel settore dei trasporti e della logistica, dove da anni è stata intrapresa una chiara politica della sostenibilità. Oggi però c'è anche un'altra possibilità rivolta sia alle aziende sia ai consumatori che vogliono effettuare scelte consapevoli durante i loro acquisti. È appena nato infatti un marchio di certificazione per prodotti e servizi che garantisce il rispetto di regole e procedure sostenibili durante tutta la catena logistica, dall'approvvigionamento delle materie prime alla distribuzione fino alla consegna finale. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che presta sempre più attenzione al tema della sostenibilità, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, ma anche e forse soprattutto sostenibilità ambientale. Tanto che qualche settimana fa è nato addirittura un marchio che sta a testimoniare la sostenibilità di un'azienda. Ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Daniele Testi, presidente dell'Associazione per la Logistica Italiana. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Cominciamo con l'inquadrare il problema. Il tema della sostenibilità ovviamente è un tema trasversale che tocca tutti gli ambiti produttivi e dei servizi e tocca ovviamente anche il mondo dei trasporti e della logistica. Perché però per questo settore è particolarmente importante? Intanto questo è un settore che oggi ha un impatto sul sistema economico italiano molto rilevante. Basta pensare che la logistica pesa, dati del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quasi per il 14% per il prodotto interno lordo, parliamo di circa 200 miliardi. Ci sono 150.000 imprese del cluster logistico e quasi 1 milione di addetti. Quindi intanto c'è un peso rilevante della struttura logistica, quello che chiamiamo supply chain, nelle attività economiche del nostro sistema. Ecco, questo come si riverbera in qualche modo sul tema della sostenibilità? Direi che è una sfida. Da questo punto di vista l'associazione che ho il piacere di presiedere nel 2005 ha individuato nel tema della sostenibilità una leva per innovare, quindi abbiamo iniziato ad osservare le migliori pratiche delle grandi aziende nazionali ma soprattutto internazionali, il fatto che la sostenibilità potesse essere tradotta come una leva competitiva, ovvero un sistema per essere più efficienti e non soltanto un meccanismo diciamo orientato all'impatto ambientale, quindi anticipando quello che oggi diventa abbastanza ovvio e riconosciuto che la sostenibilità tiene conto di effetti non esclusivamente ambientali ma anche sociali ed economici. Quindi da questo punto di vista abbiamo notato nell'esperienza di convegni, workshop a cui hanno anche partecipato premi Nobel, cito Stiglitz, Amartya Sen o importanti relatori come Jean-Paul Fitoussi, diciamo quindi mondi che vengono anche da sistemi economici e diversi da quelli verticali della logistica, che esisteva una domanda latente e una scarsa capacità da parte del mondo della logistica di comunicare quelli che erano gli sforzi che venivano messi in campo per essere più sostenibili. Da questo punto di vista esiste quindi una maggiore crescente sensibilità su questi fattori, ma ancora una latente attenzione da parte per esempio del consumatore finale, che oggi non vede nella logistica un contributo al valore del prodotto che acquista quotidianamente. Ecco, tranne in alcuni casi, perché ci sono già alcune catene alimentari di supermercati europee che invece stanno cominciando a introdurre il peso del trasporto per quanto riguarda le emissioni di CO2 sul prodotto e quindi il consumatore può finalmente capire anche qual è il peso appunto della vezione. Assolutamente, le buone pratiche iniziano a nascere proprio perché inizia a crescere la sostenibilità, questo grande grazie anche ad una serie di interventi internazionali, è indubbio che l'attività dell'assemblea del COP21, quindi sulla tematica rispetto agli impatti sull'ambiente, così come l'agenda dell'ONU 2030 che stabilisce 17 goal fondamentali per lo sviluppo sostenibile, hanno lavorato nella crescere, diciamo nella pubblica opinione, l'attenzione a queste caratteristiche. Però però c'è una forte attenzione sull'impatto ambientale, un po' meno su quello che noi definiamo la tripletta, cioè sugli elementi che oltre all'ambiente vanno a incidere sul tema sociale ed economico. E questo per la logistica diventa un fattore molto importante. Credo che sia ovvio a tutti quanti, nel seguire anche le vicende che ultimamente sono comparse sui giornali, che dietro al mondo della logistica c'è una pressione nel ribasso dei costi per i processi estremamente forte. Lo vediamo anche noi stessi come consumatori. Nel momento in cui acquistiamo, per esempio, un prodotto online, siamo fortemente tentati dalla opzione consegna gratis, che sicuramente è una trovata di marketing molto efficiente, ma lancia anche un messaggio, dal nostro punto di vista come associazione non proprio corretto, che dietro all'operazione fisica di trasporto, di magazzinaggio, non ci sia un reale valore. Ecco che allora il marchio di logistica sostenibile che cosa tenta di fare? Da una parte vuole dare alle aziende uno strumento, un modello che riesca ad oggettivare attraverso una validazione che viene fatta da un ente di certificazione, quindi un ente terzo, che in questo caso è Lloyd's Register, rispetto agli sforzi che hanno fatto, che hanno messo in campo e che contano di mettere in campo sugli impatti di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Dall'altra parte il marchio diventa uno strumento proprio per il consumatore, che potrà in qualche maniera avere una maggiore garanzia non solo sull'impatto ambientale del prodotto in quanto è stato prodotto o realizzato con modalità sostenibili, ma anche per come quel prodotto è arrivato al banco vendita. Quali saranno gli sviluppi di questo marchio? È già operativo? Cosa bisogna fare per aderire a questo progetto? Allora, il marchio è stato lanciato il 5 giugno proprio in occasione della Giornata Internazionale dell'Ambiente. È un marchio che è frutto di questa collaborazione tra SOS Logistica e Lloyd's Register di parecchi anni. Allo stato attuale il marchio è operativo. Abbiamo iniziato la nostra campagna di comunicazione e in questo momento le aziende, siano esse operatori logistici, siano aziende della grande distribuzione o siano aziende manifatturiere, ovvero coloro che all'interno del prodotto hanno un impatto di supply chain rilevante, possono decidere di aderire. I canali per entrare in contatto con l'associazione sono quelli del sito web, all'interno del quale c'è una sezione dedicata al marchio di logistica sostenibile, dove potranno inserire i primi dati che ci permettono poi di avviare attraverso Lloyd's Register il programma di validazione, così come contattando direttamente l'ente di certificazione Lloyd's Register ai canali tradizionali. La logistica è in gran fermento, ci sarà sicuramente un incremento delle attività da qui ai prossimi anni, frutto anche dell'aumento della domanda di trasporto. Quale sarà il peso dell'attività di logistica sostenibile nel novero più generale dell'attività di logistica? In che percentuale, secondo te, riusciremo a coinvolgere delle imprese sul fronte della sostenibilità? Noi sappiamo che questo è un percorso molto lungo, perché è vero, come dicevi tu, che c'è una maggiore sensibilità. Però dobbiamo anche ammettere onestamente che non esistono piani organici all'interno delle aziende e quindi anche le azioni conseguenti, soprattutto di tipo strategico, continuano a essere limitate. Detto questo, crediamo che sia una strada su cui non si possa tornare indietro. Come presidente di questa associazione io credo a una logica di crescita sostenibile rispetto a altre idee di decrescita felice. Da questo punto di vista la logistica avrà sempre di più un peso impattante sulla nostra quotidianità. Lo ha anche in virtù dei nuovi modelli di acquisto. Il tema dell'e-commerce, che sta portando qualsiasi tipo di prodotto direttamente nelle nostre case, impatterà fortemente, tra l'altro, in quelle aree che sono le aree urbane dove c'è la più forte concentrazione di interfaccia tra il singolo cittadino e i mezzi che servono per la distribuzione. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.